All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. E ragazzi, la cena tra i giri, bentornati e applausi. Vi ricordo www.ibac.it, cliccate la cena dei regini per contattarci, per sapere di più del programma e per ascoltare le puntate precedenti se ve le siete perse. Adesso partiamo subito con un brano in anteprima. Loro saranno nostri ospiti nelle prossime settimane. Sono i Frankenstein Junior con 8-Bit Love. Ed è la cena dei regini, bentornati. Parliamo adesso delle cose da fare, delle cose fatte. Continua disperatamente la ricerca di location, in quanto siamo un po' in ristrettezza di posti disponibili, dopo alcune butte sorprese, alcuni no, alcune porte chiuse, insomma ci stiamo dedicando a cercare posti nuovi per le nostre attività. Chiunque mi può contattare e proporre una casa, un terreno, un locale o quello che sia a disposizione, basta che mi mandi una mail a ilbac@ilbac.it, noi la veniamo a trovare, la vediamo a visitare e vediamo se si può utilizzare o meno. Mi raccomando ragazzi, ditelo anche allo zio se è un terreno in campagna, spargete la voce. Il calendario di questo mese quindi è in via di ridefinizione, stiamo riscrivendo le date anche in base a questo, ma intanto non si ferma lo sviluppo dei manuali, in particolare di Servi del Crepuscolo, che lo sto rivedendo e rifacendo quasi da zero. E intanto abbiamo continuato le sessioni di gioco di ruolo da tavolo con Servi del Crepuscolo. Ragazzi, com'è finita l'avventura? Siamo morti tutti! Ma dai, siete morti tutti? Io non volevo mangiare, non ho mangiato e mi hanno accoppato dopo. Hai visto. E sono stato l'unico che ha avuto le informazioni perché mi è uscita la tirata più giusta dei dati. Io però avevo le chiavi. Spiegami innanzitutto, Servi il Crepuscolo cos'è? Un'ambientazione in cui di gioco di ruolo, quindi ognuno interpreta un suo personaggio intorno al tavolo, questa improvvisazione teatrale. Servi del Crepuscolo è un'ambientazione che ricrea un po' la Germania del 1800, in cui ogni giocatore è tenuto a interpretare un servo di un malvagio, il cattivone delle storie di una volta, e quindi a interpretare un personaggio relativamente cattivo ma disgraziato. Quindi abbiamo avuto lo storpio, il diseredato, il pazzo cannibale, insomma tutti questi personaggi particolari, la meretrice che tra l'altro non è morta durante la missione, l'unica che si è salvata di culo. Ah, avete capito? No, molto bello. Non vogliamo Insomma, loro dovevano recuperare questi cervelli, come gli era stato ordinato dal loro signore. Però sembra che le cose non sono andate come speravate, no? Tutta colpa del pazzo. Perché? Mi ha tirato fuori tutti i gendarmi, erano tutti allarmati. Uno non io ho tirato fuori i gendarmi, che è andato a denunciare. No, allora, un oscuro signore ti assolda per andare a raccattare dei cervelli da un altro oscuro signore. Cosa fai? Vai a denunciare il gendarmi oscuro signore. Perché sei cattivo, no? Scusate, è stata la mia parte buona. Sei stato troppo buono. Male, malissimo. E infatti sei stato punito per questo. Per colpa tua, ecco, io ho quasi mangiato un che cos'era? Un becchino. No, era il guardiano del cimitero. Sì. Si è partiti dalla presunzione di mangiare le persone vive che si incontravano per la strada, poi si è finita ad autodenunciarsi praticamente verso i gendarmi. Insomma, abbiamo visto un po' di tutto. Però io avevo le chiavi, tutti gli chiamano uguale. E alla fine, incredibilmente, un gesto che sembrava irrazionale all'inizio dell'avventura si è scoperto vincente, perché comunque gli ha permesso a tutti di arrivare a capirne di più, diciamo, della storia. Ragazzi, nelle prossime settimane si ricomincia altre serate di gioco di ruolo da tavolo. Ricordiamo il grande divertimento di questo gioco, ovvero mangiare patatine e stare tutte assieme. Mangiare patatine. Mica il gioco, no? il gioco di ruolo da tavolo è questo. E insomma, ci aspettano fantastiche avventure, come direbbe qualcuno. Fantastiche melodie. In questo caso fantastiche avventure. Sappiamo dove abitare. Grazie ai nostri fogli potremmo cominciare a fare fantastiche avventure. E comunque ragazzi, adesso passiamo un po' di musica con dei futuri ospiti della cena. Ancora? Altri ospiti, perché verranno a trovarci forse la prossima settimana. Mad Simon and Syndrome Band con La Notte di San Lorenzo. Niente Atlante, un percorso, solo uno strano senso di rimorso. Passo due volte dallo stesso posto, riconosco lo stop e le diana, pacco rosso sul cruscotto, solo cenere, nell'aria solo fumo, sul mio viso luce d'ambra che si alterna con il buio,

Ragazzi, è la cena dei regini, bentornati. Adesso passiamo comunque all'angolo delle notizie. Ragazzi, una notizia sconvolgente: la Rai dice addio a Miss Italia. Il tradizionale concorso di bellezza di fine estate non verrà trasmesso in televisione. Incredibile. Cioè non verrà fatto proprio, oppure non verrà trasmesso? No, penso che verrà fatto, però non verrà trasmesso. E perché mai? Mercificazione della figura della donna. Un po' quello, e un po' il fatto che comunque c'è un taglio di costi e via dicendo. Ah, vabbè, allora sarebbe per i soldi, è un altro motivo, secondo me non lo fanno. Ma prima quest'anno che partecipava Morgan. Avevo buone possibilità. La prossima volta. Ma sinceramente io sono a favore di questa cosa. Anch'io sì, concordo. Perché mi dispiace che comunque. Che poi non ho mai capito la cosa, perché le miss quel discorso devono parlare, devono essere simpatiche, carine, eccetera. Ma sei un concorso di bellezza. Ma la bellezza non è solo esteriore. Bravo. Sì. Però non vai un concorso di bellezza a far vedere la bellezza interiore. Ragazze, ditemi la vostra. Vi sentite private di questa vetrina femminile? Sì. No, me la premia. Anche per me è fastidioso. Perché l'abbiamo invitata? C'è questa tendenza che la donna deve necessariamente parlare e essere simpatica, perché scade sempre in una forma di esteticismo. Esatto. Perché tutto diventa un accessorio di questa apparenza. Chiaro. Ma anche perché, voglio dire, è un concorso di bellezza, quindi comunque ti esponi per un discorso estetico, cioè relativo. È meglio che facciano silenzio, insomma. Ma volendo, però è capitato, mi pare, anche che è diventata. È tutto un programma. Sì, è diventata Miss Italia, mi pare, una di Crotone che parlava tutta così, quindi non è che io ti volevo dire niente, però anche se io mi esprimo in questa maniera, ha vinto lo stesso. Non volendo dire. Hai visto? E quindi insomma. Mi dispiace, ma Miss Italia non ci mancherà. No. Invece, ragazzi, l'ultima moda del trend per quanto riguarda il benessere femminile a Tokyo sono le lumache. Esatto. Questo centro benessere straordinario fa un trattamento che prevede che vengano poste lumache vive direttamente sulle facce dei clienti, permettendo agli animali di muoversi liberamente, lasciando delle scie di muco sulla pelle delle persone che si sottopongono al trattamento. Cosa c'è di più bello di questo, ragazzi? Addirittura c'è una crema che si chiama Elicina, che è fatta proprio contenendo la prova di lumache. Poi... Ma ti immagini che tipo. Ma è fantastico! Quando le lumache ti camminano addosso, no? Che ti lasciano le strisce. E magari fazione solo sulla striscia in cui sono passate. Ti ritrovi col colpo a strisce. È per questo che te la devi fare proprio passeggiare tanto a lungo. La lumaca, la bava di lumaca ha veramente proprietà che fanno bene alla pelle. Sì. Però meglio questo metodo, anche se sembra un po' così, insomma, sì. E anziché la crema, che qua dentro magari c'è un po' di silicone, cose varie. Quindi tu lo faresti questo trattamento? Io no, vabbè, io come no? No, aspetta, se avessi una cosa, fossi giovane, tenessi molto all'aspetto esteriore, probabilmente lo farei, siccome che io non sono questo tipo di persona. Però non mi dà assolutamente fastidio, le lumache a volte tipo sono in montagna, le faccio camminare con sulle mani, mi piacciono. Ci ho fatto fare figli l'altra volta. Si lamentano sempre, si sgravano sempre quando le prendo in mano. Sì, ti lasciano la scia, perché si vede che io vado in montagna d'estate, quindi a quel periodo lì, quando io le trovo, le metto sotto l'acqua, si vede che si riprendono subito e cominciano a fare i figli. Giustamente sono più frizzantelle. Una volta ho preso anche un tappino di bottiglia, ho messo le ovette perché mi dispiaceva abbandonarle lì e le ho portate giù a Reggio, però durante il tragitto con il calore si sono asciugate. Dai, terribile. Ragazzi, cosa ne pensate del trattamento con l'umano? Non lo fareste mai? Ma come? Ottimo, la natura che ti scorre sulla pelle. Ragazzi, voi lo fareste? Durante la... Beh, diciamo che penso che la mia bellezza sia già troppo elevata e credo che farei sfigurare troppo gli altri, quindi dico di me. Cioè, la pelle, che la mia pelle è molto delicata, e quindi penso che dovrei. Non hai la barba. Ma vuoi la mia barba? No. Ok. A parte tu. Vuoi fare. Ti fai. Lui va in giro e sfida gli altri a chi ha la barba più lunga, però poi se la taglia. Comunque. Vabbè, per dare un vantaggio sugli altri. Vero. Sono così buono. Non fa il pizzetto. Infatti il pizzetto. No, ma è anche nella. Poi sembri come si chiama? Jack Black. Io sono Jack Black. Nell'attività erano. No, dico, anche nell'antichità erano usate le lumache per curare diverse patologie. Sì, caspita. Ad esempio l'ulcera e quelle cose lì. Vabbè, ma la sensazione della lumaca che ti cammina addosso, penso che per una ragazza sia particolarmente. Almeno proprio sul, vabbè, sul cosa... viso non lo so, sulle mani so che non dà fastidio. No, deve essere proprio in faccia, tra l'altro uno dovrebbe tenessi molto da dover andare a fare diversi trattamenti, allora lo farei anche io, per dire, però siccome non era il mio caso, cioè anziché andare a spalmarmi la Nivea in faccia, mi preferisco la lumaca. Giustamente. Anche perché la Nivea c'è, sì, c'è uno schifo, è quello che non credo. Ragazzi, altra notizia, visto che questo trattamento, tra l'altro ovviamente ha i suoi costi, perché comunque è una cosa di ultimo grido nell'utilizzo delle lumache, McDonald's ha stretto una partnership con Visa per creare un sito che aiuta i propri lavoratori a basso salario a gestire i loro $8.25 l'ora di paga. Quindi loro vanno su questo sito e il sito lì è una specie di... un gestionale, diciamo, online, dove loro possono inserire le loro spese e gli aiuta a gestire questa piccola cifra. La cosa bella è che il sito è ovviamente pensato per far credere ai lavoratori di poter campare una cifra così bassa come non è possibile, e infatti mancano anche delle voci essenziali come i vestiti e il cibo, quindi è una cosa molto illusoria. E poi tra l'altro prevede anche la possibilità, cioè all'interno del sito di McDonald's stesso, che la persona abbia già un secondo lavoro, quindi già la possibilità di accedere a un altro lavoro. In che mondo viviamo, ragazzi? Le ristrettezze. Si farebbe di tutto per poter guadagnare qualcosa. A proposito, una suocera da vendere. Come faresti senza tua suocera? Non si può, come faremmo anche noi. Possiamo affittare Andrea. Ecco, affittiamo Andrea. Andrea. E poi la novità per quanto riguarda la tecnologia è un elicottero a pedali. Fuck yeah! Fantastico. Aspetta. Questa è un team di ingegneri canadese dell'Università di Toronto, ha creato Aereo Velo, questo elicottero che funziona a pedali. Solo a pedali. Ma non l'avevano già fatti i Flintstone? Ok. No, è questa. Tra l'altro è bello corposo, perché sono. Cos'è lavorare solo con due pedali? Vedi? Sono quattro eliche collegate a questo telaio di bicicletta che insomma girano a. Ah, a pedali, cioè nel senso che tu cicli e lui si solleva. Sì. Ah, ecco, avevo capito, invece un elicottero che si guida solo con due pedali. E la cosa bella è che questo progetto ha vinto adesso un premio messo in palio 33 anni fa. Cioè per 33 anni non sono riuscito a fare questa cosa, adesso hanno vinto. Poi c'è stato qualcuno che ha lavorato per 33 anni. Per 33 anni. 33 anni per fare la macchina dei Flintstone. Potrei benissimo dire quanto lavoro spiegato. È uno studio legale di Adelaide, sta consigliando ai suoi clienti di includere nei loro testamenti nomi utente e password di email, banking online, blog e via dicendo. Quindi tutte le username e password per accedere agli account online. Una cosa che un po' segna il procedere dei tempi, perché comunque ormai tutte le cose più intime, più particolari sono contenute in queste... In file particolari, magari di un medico, di una persona che ha delle cose. Capisci? E ormai il cambiamento è il letto di morte, ragazzi. Una volta si diceva, oh, ti ho voluto bene. E via dicendo, adesso si dice, oh, la mia password è puppi79. E quindi... E cioè tu daresti la password di accesso al tuo Facebook quando muori? Per forza. Non perché solo per qualcuno che scrive sono tornato. Oppure anche in paralisi abbiamo il wifi. Anche delle password di file magari criptati, cose. Ah, ragazzi, qua sopra c'è il wifi proprio al massimo. Sì. Allora così capirei. Magari qualche documento. tagli il Facebook, che gliene frega loro, sono morto. Tutto, guarda, penso che bene, tutte le cose, magari Facebook hanno dei contatti con persone che non, magari che conoscono, che ad esempio se tu domani morissi, no? uno a caso, l'uomo per della esempio, strada, uno a caso. Cioè, uno che ti conosce, mi prende un tir, appena esco di qua. Tipo uno 18 ruote, i tuoi amici di Facebook, cioè, che hai magari che sono fuori dall'Italia o persone che ho conosciuto, che ne so, tramite web, che ne so, come che si però fa? Le senti, come faccio io a dirgli no, Daniele è morto? No, verrà scritto, verrà scritto su Facebook. Guarda, c'è il modo, praticamente su Facebook. No, niente, sono morto. Su Facebook già da qualche anno c'è l'opzione, tipo, c'è proprio la pagina nascosta, tu vai, gli scrivi il nome e gli alleghi il certificato di morte. E Facebook ti chiude la pagina, allerta tutti gli amici di quella. Fantastico. Di quel profilo. Assurdo. Appunto, ecco perché allora. Facciamolo. Perché c'è questo servizio. Domani mi muoio. Mi scrivi nel tuo. Sì, ma è un peccato. È un peccato. Perché comunque, cioè, una volta c'erano i carteggi, le lettere che si mandavano, eccetera, ormai. Diciamo che tutto è sopperito, è cambiato grazie a Facebook, email e via dicendo. Tu pensa solo alle foto. Una volta si facevano le foto e si conservava il cartaceo, quindi avevi là. Perché non c'è più. Sì, ma considera, andando avanti nei tempi, saranno più le foto su Facebook oppure su vari servizi che non quelle. E poi arriva un tizio qualsiasi, kamikaze del Medio Oriente, non ben identificato come un talebano, che ti si butta sopra al sito, gli fa un hackeraggio di quelli belli tosti e tu perdi tutte le tue foto perché non hai una copia di backup. Vogliamo metterlo, ecco, io non lo faccio, ce l'ha Facebook, lo vedo, facciamo un, spacchiamo una penna, una domani aggiungi al tuo testamento un sito che è stato distrutto proprio da un attacco hacker, dove c'erano tutte le documentazioni che mi interessavano e le ho perse tutte perché non avevo fatto la copia di backup, no, che non era ancora attiva. Ma questo è il rischio del cloud in generale, esatto, e quello è il discorso. Tu non puoi affidarti solo e unicamente a una cosa messa online, devi avere anche un tuo database personale, un hard disk, che poi al punto di morte consegni. Non sono tutti così maniacali. La gente magari usa Facebook così con leggerezza. Comunque tu mettilo il account di Facebook, che non si sa mai. Domani mio punto di morte. Domani. Punto di morte è quella differenza. Cioè, ragazzi, c'è poco da fare. Scambieremo le password. Ma c'ho solo 400 amici, chi se ne frega? Magari se ne avessi 2000. Sono password di conti in banca. Tutti i miei amici mi conoscono. Pensa al conto in banca. Pensa al conto in banca. E che cosa ci vuole? Vai da quello del conto in banca. Sono la moglie del tizio Caio. Ma chissà, magari. E quello ti fa, mi dia un foglietto che lo dimostra. Io faccio vedere tutto. Ormai cioè. Quindi Daniele, mi fanno le condoglianze tramite Facebook per te. Quando morirò lascerò la mia password a Morgan, perché perché così può scrivermi. Vede, sono quando morirò una cosa che nessuno capisce, no, va di moda quando l'amico lascia, per esempio, aperto Facebook, sono gay, e invece cosa faccio più intelligentemente? Vado e cambio, mi piacciono da donne a uomini, così lui non se ne accorge e tutti si. E cosa c'entrava questo? Lo farà quando sei morto. Così quando sei morto. Ma mi piacciono i morti. Andrea, ti amo. I morti. Ti voglio. Io volevo mettere invece i miei. Ti lascio tutto il mio patrimonio quando voglio. Posso fare un appunto? Sì. Grazie. 7.000 euro sotto. Ok. Grazie, grandioso. Posso fare un appunto sulle foto su Facebook? Vai. Ecco, allora, secondo me c'è un forte problema oggi con questo, con Facebook e con tutte le tecnologie social network, il fatto che una cosa come le foto vengono prese come ritrarre dei momenti di felicità artificiale, nel senso che mentre una volta l'occasione della foto era un'occasione, sì, era un'occasione, diciamo, non era un rituale, era una cosa che accadeva una o due volte l'anno, e quindi si andavano a ritrarre dei momenti felici. Invece adesso, con tutte queste foto che vengono fatte quotidianamente, sembra quasi che noi dobbiamo comunicare una felicità che non possediamo a delle persone di cui non ce ne frega praticamente nulla. Bello, vedi che dice cose profonde. Sì, è profondo, caspita, non ci avevo mai pensato. Tipo quelle che si fanno la foto nuda e poi scrivono: ah, sono brutta. Perché metti la foto nuda? Detto una cosa profonda. Aspetta che risponda alla cosa profonda. Devi subito andare. Era un allegato. Non è solo vero. Secondo me la cosa più brutta è che siamo abituati. Una volta si viveva un momento di emozione, così si guardava una cosa bella e si viveva. Adesso i momenti emozionanti si vivono così. Perché con l'iPad devi fare la foto, anche matrimonio. Mettere tra te e comunque quel momento emozionante, questo blocco è terribile. Ma ci sono anche molti artisti, me lo confermerete, che durante i concerti vorrebbero che non si facessero riprese e dicono: godetevi il concerto, non state là a inquadrarmi con l'iPad e via dicendo. Quindi questa è la cosa più... Anche ai matrimoni, ad esempio quando gli sposi prima una volta buttavano il riso, adesso sono tutti lì con il cellulare. Perché poi c'è il fatto che vogliamo immortalare il momento, ma non vogliamo viverlo quel momento, cioè questa è la cosa più strana. Esatto. Perché poi siamo più preoccupati del ricordo che del vivere, se non abbiamo cosa ricordare. Anche le foto che vengono fuori degli sposi, tu vedi, ci ho fatto caso l'altro giorno che si è sposata una mia amica, carissima, di quando praticamente eravamo all'asilo, e l'ho vista sposata su Facebook. Mi ha fatto piacere, perché comunque essendo lontani non è che puoi mantenere, ci siamo rivisti una volta quando siamo andati su. Si è sposata e praticamente c'è questa bella chiesa, tutta questa, diciamo, scenografia, no? E poi ci sta lei che praticamente entra in chiesa e gli invitati, invece di stare lì come una volta stavano lì a guardare la sposa, non ce n'era uno che non aveva il cellulare in mano. È vero. Assurdo. Cioè si diluisce pure quel sentimento che hai nel vedere la foto. Perché sei sempre lì a fare foto. Che poi tra l'altro su Facebook non finiscono le foto quelle naturali. Cioè quello tipo che quando scendi tipo ad aprire la cazza della Befana, spettinato, col struccato, con il pigiama della nonna di flanella. Quella la tiene ben chiusa dentro all'armadietto. Però su Facebook la foto tutta. Vedi, l'importanza di lasciare la password di Facebook, perché altrimenti a te restano le foto tutte spettinate e schifose su Facebook. Una piccola. E ragazzi, continuiamo con la musica. Chris Roche con Nothing But Shame. Around asking for love, don't come around asking for a truce, 'cause you don't wanna hear it from me, and I don't wanna hear it from you. You give me nothing but shame. You give me nothing but shame. You only give me reasons to blame. Reasons to blame. You give me nothing but shame. You give me nothing but shame. You only give me reasons to blame myself, myself, myself, myself. Don't come around thinking like you own this town. Don't come around wishing to be friends, 'cause you don't wanna hear it from me, and I don't wanna hear it from you. You give me nothing but shame. You give me nothing but shame. You only give me reasons to blame. Reasons to blame. You give me nothing but shame. You give me nothing but shame. You only give me reasons to blame myself, myself, myself, myself. You give me nothing but shame. You give me nothing but shame. You only give me reasons to blame. Reasons to blame. You give me nothing but shame. You give me nothing but shame. You only give me reasons to blame myself, myself, myself, myself, myself, myself, myself, myself, myself. Ragazzi da Cena Regini, avete cliccato la Cena Regini su www.ilbac.it? Fatelo adesso, www.ilbac.it, e cliccate la Cena dei Regini per venirci a trovare, seguire la trasmissione, ascoltare le puntate precedenti e tra poco anche questa, perché andrà in podcast nei prossimi giorni. Passiamo all'angolo della classifica con 14 consigli per perdere peso senza modificare le proprie abitudini, scritta dagli americani. Lo sottolineo sempre perché sarà importante anche questo. I giapponesi la pensano in maniera diversa. McDonald's, è una classifica che vabbè, io non avrei più modo di... Come dire, sono... Ah, vabbè, devo farla io, ho capito. Ormai non posso più... Devo farla io, di redigere questa classifica. Comunque, allora iniziamo. Numero 14, ragazzi: non saltare mai la prima colazione. Saltare la prima colazione è importante per avviare il metabolismo, la fame che determina il momento giusto per il pranzo, così coloro che non hanno fatto colazione sentono il bisogno di snack ad alto consumo di grassi o zuccheri. Quindi tu fai la colazione. Infatti, se io non faccio la colazione la mattina, testimoni loro, alle 11:15 mi viene una fame che mi mangerei pure le gambe del tavolino se non fossero di legno, però me le mangio lo stesso, è tipo d'arma. E ti fai quel paninello con la porchetta, salsiccia soppressata, due fette di salame, una cosa così leggerina, dentro. Un po' leggerina, la mediterranea, ecco. Abbiamo capito perché no, neanche io mi posso permettere questa classifica. Abbiamo capito perché ho 10 kg fissi ormai. Dettagli, ragazzi. Infatti siamo qua per imparare e divulgare questo. Certo. Numero 13, mangia i carboidrati nella prima parte della giornata, perché sono più facili da digerire nella prima parte della giornata. Cioè mi devo mangiare un piatto di pasta asciutta la mattina? No, nella prima parte della giornata. Ah, pranzo. Però evitare la cena, la pasta. Ah sì, certo, ci mancherebbe pure. Anche la mattina. Ma qua non molli più. Una bella colazione. Una pizza, ad esempio, la sera, con carboidrati. Male. Pensate che a Capodanno... Ho sbagliato. Pensate che a Capodanno noi due, alla mattina tipo alle 6, 5 e mezza, patatine fritte e whisky, lasagne e lasagne e tante altre cose ancora. Cioè alle 5 di mattina. Alle 5 di mattina. È la prima parte della giornata. E infatti ci siamo sentiti male per 3-4 giorni dopo. E quindi voi rispettate questa... Siamo molto religiosi. Comandamento. Numero 12, e questo devo dire che rientro. Rinuncia all'ascensore ed utilizza le scale. Prendendo le scale puoi ridurre del tuo giro vita di quasi il 2% in 12 settimane. Incredibile. Io l'ho quello che abitava, cioè non c'è più, sul coso del Pirelli. Ma io abito al primo piano. E devi fare più scale, devi uscire di scale di cadica. Faccio su e giù due volte e poi entro in casa. Il grattacielo della Pirelli, la bellezza di... Alla 85 piani, arrivato al terzo ti prendi una sincope, al 18esimo non ce la fai più, al 17esimo superiore, con la barella iniziano a portarti fino all'85esimo. Noi abitiamo al piano terra. Naturalmente al 56esimo i portabarellieri sono morti. Arrivano con l'elicottero, sfondano le finestre. Smetti però 2% in 12 settimane è... 2% è in 12 settimane, quanto sono? 3 mesi. Però voglio dire, consideravo 2% in 3 mesi. Sarebbero distribuite durante le parti della giornata, certo. Ogni volta che esci. È uno che esce spesso di casa, abita al quinto piano, che altrimenti non si... Noi abitiamo al piano terra, però ci sono tre scalini, praticamente potremmo fare scalini tra scalini, gli scalini 100 volte. Oh, Bacco, io ero a Levici, no? Mm-hmm. E non c'ero abituato più a fare le scale, che era abito al terzo piano. Se non mi tengo al muro così vado giù al terzo piano. Ah, sì. E con le scale liguri praticamente ti marisci su. Sì, sì, immediatamente. Perché sono più strette e alte. Invece di essere i normali 20 centimetri di scalino sono quelle da 60 e soprattutto non esiste ascensore, cioè fanno tipo le scale piramidi, no? Sì, cioè in un piano di scale, una rampa di scale, sono tre piani, sono praticamente le case che sono arroccate, che una volta è un paesino che è, diciamo, del antichità. E la particolarità delle case liguri sono senza ascensore, molto colorate, con gli scalini che sono gli scaloni, senza ringhiera, 40-50 centimetri sono gli scaloni e poco, poco ampi e molto alti. Fantastico. Se perdi l'equilibrio senza ringhiera per un motivo particolare, no, no, non c'è la ringhiera, non è, perché essendo vecchi, vecchi non c'era. Poi vabbè, ovviamente con la modernizzazione ci sono state messe queste ringhiere, però prima non c'erano neanche quelle. Quindi non c'è niente da dove tenerti, inciampi e vai direttamente tre piani più sotto col naso. Fantastico. Sì, questo è per dimagrire. Certo. Numero 11, impara a capire di cosa hai voglia. Cioè, no, quando sì, pensi di aver voglia di dolciumi, ad esempio, può essere solo un desiderio di zucchero, basta mangiare un pezzo di frutta in modo da eliminarlo in fretta. Quando mi viene voglia di mangiarmi una porchetta con la mela in bocca? No, io questo lo farei con un gelato che ho scoperto l'altro giorno, il gelato al cannolo. Questa meraviglia. Al cannolo? Gelato al cannolo, ragazzi. Non si può io dire. A Reggio Calabria esiste qualcuno che fa il gelato al cannolo? Sì, sì, sì. Questo bar non si può dire, però. No, non si fa pubblicità, non si può fare pubblicità. No, no, assolutamente. Numero 10. Mangiare le calorie invece di barre. Questa qua è una cosa veramente incredibile. Sì. Masticare da sazietà. Quindi si può prendere 15% in meno di calorie rispetto a quando si mangia la mela che invece di prendere il succo. Cioè? Ho perso qualcosa. Solo masticando sì, ti dà un senso di sazietà. Sì, tipo le ceuita. Quindi alla fine, in media, facendo un calcolo veloce, è un 15% in meno di calorie che... Grazie, con tutta l'energia che consumi per masticare volevo pure vedere. Energia... Però masticando una 5 per un'ora ti viene una... Esatto, ma soprattutto l'energia, ma soprattutto la sensazione di sazietà che ti dà solo sì, il gesto di masticare. E questo perché... è per me uno shock, perché io ero rimasto ai beveroni che si facevano i una succhetti volta. Il frullato mistico. Vabbè, ma è superabile sì, il frullato. Un bel pezzo di pane secco, ci metti sopra il frullato, lo inserisci per bene e iniziamo a masticare. Che schifo. E vai. Numero 9, fare un piano, e qua si capisce il tocco americano, fare un piano di per bere più acqua. Ti stavo detto un milione di volte di bere più acqua, ma questo non lo rende affatto più facile da ricordare. Quindi, allora qui, perché secondo me... Quindi associa l'acqua a qualcosa che fai spesso, ad esempio ogni volta che si controlla la posta. Questo ti dirà sempre pieno tutto il giorno ed essere sicuri di ottenere l'importo di acqua che si dovrebbe avere. Sì, è vero, perché uno dovrebbe bere almeno 2 litri d'acqua. Metodo migliore per poter bere sempre acqua e sempre in maniera corretta, tenersi la bottiglia sulla testa. Naturalmente il peso della bottiglia ti dà fastidio e non fai altro che bere sperando di levartela dalla testa. E quindi a fine serata ti sarai bevuto 2-3 litri di acqua nel tentativo di diminuire il peso sulla cervicale. Però per fare questa cosa ci sono anche delle, tipo aromatizzare l'acqua per renderla più appetibile, tipo mettendoci dentro un po' di con calma spremuto, oppure sono i trucchetti, che sì, un po' di vino. Però è singolare che per ricordarsi di bere l'associano al controllare la posta, sì. Cioè, come dire, più secondo più me, siccome gli americani non hanno quelle cassettine belle tonde, sai, con la bocchettina, no, che ma si apre l'email, con... l'email. Ah, la posta elettronica. No, io parlavo proprio del... Lì dentro ci mettono una bottiglia, no? Quindi aprono, si ricordano che devono bere, la tirano fuori, se la bevono, la reinseriscono e richiudono. Se no ogni messaggio che gli arrivano via chat bevono un bicchiere d'acqua. Immagina, quelli chattano parecchio. Sarebbero... E adesso che abbiamo la fontana su, la montagna. Hai visto? dovete approfittare. Approfittiamo. E infatti, è l'acqua migliore del mondo quella, eh? Ragazzi. Numero 8, bevi un bicchiere prima del pasto, perché spesso quando pensi di avere fame in realtà hai solo sete. E questa cosa io no, questa cosa io l'avevo già registrata. Lo so, però di certo ti posso dire una sicurezza totale dagli studi che abbiamo fatto. Risulta che se bevi l'acqua durante i pasti, cosa stranissima, diminuisci l'acidità dello stomaco. Cioè l'acido rimane sempre, però la concentrazione dell'acido diminuisce, okay, e non favorisci la digestione, anzi fa il contrario, la peggiori, perché l'acido non intacca più i cibi, uh-huh, e quindi non sono più tanto facilmente digeribili, uh-huh, quindi l'acqua lontano dai pasti, possibilmente prima e non dopo. Sì. No, quello che dice qua è che quella sensazione che noi a volte scambiamo per fame, a volte è semplice sete. Può anche darsi. E passiamo al numero 7. Altro shock. Rinuncia alla sedia per una scrivania in piedi. Tanti benefici per una scrivania in piedi, per utilizzarla. Coloro che trascorrono più di 2 ore in piedi possono perdere fino a 350 calorie in più al giorno. Ed avere 2 piedi grossi così a fine giornata da dover mettersi nella tavola invertita per poter riavere tutto il sangue dove è nella posto giusto. Ma infatti io penso che la stanchezza sia superiore al beneficio. Penso pure io. La flebbita gli viene in una maniera spaventosa. Però loro dicono che la scrivania la tavola invertita la si dovrebbe usare sempre a fine serata. Però fare 150 una mezz'oretta calorie in tavola invertita, stare così. Che bella testa sotto. Ci vorrei vedere io. No, la devo fare, me la devo costruire, troppo. Tutti dovremmo una figata. Assolutamente. Me la faccio per forza. Ma si va a casa degli orsi di riccio di d'oro e ne prendiamo uno. Sì, certo. 34 calorie al giorno non sono neanche male per essere. Se fosse vero. 100 calorie al giorno. Mangio di un piatto di pasta da meno e. Numero 6. Tenere spuntini sani con voi. E qua. Assicurarsi di disporre di opzioni di cibo con voi sane per ridurre le passeggiate verso la gelateria o comunque quei posti di perdizione altrimenti detti. Cioè farti una passeggiata invece di andare con la macchina? No, tenere con te, che ne so, la meletta. Ah. Così la mangi anziché arrivare. Vedere tipo un fast food che vende. No, ma portarlo con sé, capisci? Sì, sì. Portarsi la meletta. Tipo nella borsa la parmigiana. Poi passi sani, kit, quindi. Mi fai voglia, Io una volta da piccolo, in prima elementare, mi sono portato la pasta a scuola. Hai fatto bene. Di mattina. E l'ha mangiata alle 8. Alle 10 ho mangiato la pasta. Col forchetto e coltello, poi. Ma sei stato discriminato per questo, oppure... No, c'erano gli altri che mi guardavano col paninello, wow, classico, no? Numero 5. Salta le bibite e vai col tè verde. Vero. Uno studio di The Journal of Nutrition ha scoperto che il tè verde riduce il grasso corporeo ed è un ottimo modo per ottenere caffeina liberamente. Sapevo del tè verde, ci sono varie teorie sul tè verde. Tra queste c'è il tè verde che fa bene al cuore. Che? Le bibite. Le bibite fanno male. Da a parte evitare il contenuto di zuccheri elevatissimo che c'è, che verrà superato fra poco dalla famosa Coca-Cola Light. Alla stevia. Alla stevia che abbiamo fatto la settimana scorsa, anzi 2 settimane fa. A parte quella che farà la rivoluzione di tutte le bibite, perché poi all'ultimo lo faranno anche gli altri, essendo una pianta non si può fare il brevetto. Certo. E quindi la potranno utilizzare tutti e sarà una cosa buonissima. La cosa buona, ancora più buona, che saranno tutti i dolci, verranno fatti con la stevia. E poi ancora non ci aveva pensato nessuno, lo faranno e quindi ci sarà un miglioramento ancora là e quindi le bibite forse miglioreranno, ma c'è sempre un problema: le bibite sono delle soluzioni, non di soluzione concentrata, quindi prendi una bibita qualsiasi, esempio un'aranciata, senza fare nome, un'aranciata, entro l'aranciata c'è scritto per legge ma minimo 12% di arancia. Tutto il resto cos'è? Punto interrogativo. Ecco, se noi consideriamo che normalmente in un'arancia ci sta il 70% di acqua e il 30% di sostanze nutritive, o anche di più, il 90% di acqua e il 3% di sostanze nutritive, queste fanno arancia, questa è una succo d'arancia. Dentro quello ce ne sta solo il 12%, cos'altro c'è? ce lo siamo domandati. Plastica. No, residui. Non è plastica, ci stanno proteine, limone, che non c'entra niente. Acqua che mettono in più. Zuccheri, aromi naturali, aromi. Certe volte c'è scritto, ad esempio, aromi. Tu lo sai che quando dico aromi non è naturale? Sono aromi sintetici? Ovviamente. E quando invece c'è scritto aromi naturali, c'è l'aroma naturale. Cioè, tu quando vai a berti un'aranciata del genere, ti prendi di tutto. Ma a e me poi assaggia un'aranciata qualsiasi, una, non dire nomi, o assaggi un'aranciata. Poi prendi un'arancia e te la mangi. Senti la differenza che c'è, no? Bravissimo. Abissale. A me tempo fa in America, proprio per questo, un tizio che lavora nel settore disse che ormai anche quando hanno a disposizione un prodotto fresco usano comunque il per l'aroma, diciamo. Perché gli aromi costano di meno. Costano di meno, ma soprattutto perché il palato umano, diciamo, è abituato a quella fragranza. E quindi se ti escono fuori due bottiglie che hanno sfumature di aroma diverso, non facendo nome, comunque c'è il chinotto, il famoso chinotto, che è tratto da un frutto che si chiama chinotto italiano. C'è proprio una, tu assaggi vari tipi di ditte che fanno il chinotto. Io mi avvicino a una determinata ditta perché è la più buona di tutte, la fa in quella maniera. Mm-hmm. E altre per me non sono buone. E proprio per questo ci siamo abituati a dei sapori finti, fatti di plastica, diciamo, a cui ci avviciniamo tanto. Ormai ed è una cosa sbagliata, sì. Spesso e volentieri quando magari mangiamo il frutto, vediamo il succo veramente di quel frutto, ci sembra che quello sia il sapore finto. Infatti, mentre quello sia... Questo è il momento in cui non vorresti avere la lattina di Coca-Cola con su scritto bevila con tizio che è sempronio. Dopo che stai, cosa ti fa tutta questa cosa? Purtroppo è così. Purtroppo c'è questo. A me non è mai successo, mi dice la gastrite per la Coca-Cola. Sì. Perché ancora a lungo andare ti si rovina lo stomaco. Numero 4, fantastico. Metti il tuo cibo in piatti più piccoli. Geniale. Ne sembra di più. E poi punti extra se le stoviglie sono blu. È incredibile. Vero. Mettete spiegazione, mettete il cibo in piatti più piccoli, vi aiuterà a mangiare solo l'importo che si dovrebbe, perché comunque per un fatto di ovviamente dimensioni. E poi per aumentare l'effetto si vede una cosa visiva ma anche psicologica. Il colore blu può agire come un sopprimi appetito. Fantastico. Compriamo tutte le cose blu, che io vado pazzo per i blu. No! Piatti blu da domani. Anche un micchietto con blu. Io ce li avevo, le portate in house. Non funziona. Numero 3, rinuncia alla carta di credito e paga in contanti. È molto più probabile l'acquisto impulsivo di cibo quando si può pagare con carta di credito. Perdere tempo nel contare il vostro denaro rende più consapevole di ciò che si sta acquistando. Questo è sicuramente vero, ma qua in Italia è molto difficile che qualcuno faccia acquisti con carta di credito. Di cibo così al discount? Al discount sì. Però quel millisecondo in cui... In effetti io preferisco comprare in carta di credito che non in contanto, perché ti diminuiscono. Una cosa che sai quanti soldi meno hai in tasca, ti dà un fastidio. Numero 2, cercare di rallentare quando si mangia velocemente. Mangiando lentamente si è in grado di dare più tempo allo stomaco per digerire, quindi è molto più facile sapere se si è pieno e smettere di mangiare. Anche perché durante la masticazione, noi sappiamo tutti, si tritura meglio il cibo, si mescola meglio il cibo, esatto. Gli enzimi presenti nella bocca agiscono perché c'è anche questa azione e il polo alimentare è migliore. E si evita di avere dei problemi di stomaco nella digestione. Cioè, si dà il tempo di avvertire la sensazione di sazietà. Anche. Perché lo stomaco deve avere il suo tempo di elaborazione dei dati. Tutto in una botta. Sì, infatti, se ti mangi una cosa. Non fai in tempo. Perché non c'è il gusto di mangiare? Hai mai provato a berti l'acqua proprio? Hai voglia di sete, proprio stai morendo di caldo. Prendi quella bottiglia d'acqua fresca e cali a tantissimo, no? Poi quando dici, ah, sono pieno, mamma mia che mal di panza, perché ti sei riempito più di quello che doveva essere. Il segnale che dice che sei pieno impiega del tempo per arrivare, perché è chimico, non è elettrico, e non fai in tempo che già ormai ti sei più pieno di quello che dovevi essere pieno, esatto. E fai, porca miseria, mi sono fregato. Quindi confermiamo gli americani. Confermiamo gli americani su questo punto pienamente. Prima di gesti o fitti, no, Yes. lo vedi come è profondo, è profondo ragazzi, basta. Numero 1 ragazzi, ultima rullo di tamburi, no, dobbiamo farla. Rilassati. Numero 1 è rilassati. Ossessionarvi nel perdere peso può diventare controproducente. Lo stress fa cose folli per il vostro corpo e si avrà più difficoltà a perdere peso di conseguenza. Quindi mantenete la calma e mangiate sano. E se lo dicono gli americani, dobbiamo credere. Anche perché gli americani hanno uno stile vita. Hanno inventato il McDonald's, quindi il fast food. Perché? Perché non avevano tempo per poter dedicarsi al mangiare. Quindi tutto cosa in fretta. Perché non avevano una lobby che gestisce il mangiare, quindi non l'hanno inventato. Sì, naturalmente. Erano scoperti di questa cosa. E quindi giustamente, sì, mangiare con calma, con... Infatti, se tu noti le cene, se tu sei a tavola, no? Fai quelle lunghe cene di Natale, quelle cose, e state lì e parlate, passa il primo e dici parlate, arriva il secondo, no guarda, meglio di no, non, sono già pieno. Perché? Perché sei stato tutto rilassato, tranquillo, quindi il primo ti ha abbuffato. No, non c'è, no. Più che altro che sia il problema di quando inizi la dieta. Quando inizi la dieta, almeno io la provo già più che, ma quando tu parti, no? Che magari dici, vabbè, dai, è un periodo che sto riuscendo a trattenermi, inizio una dieta. Quando tu inizi la dieta, puntualmente, la prima cosa che ti viene nella testa è: non potrò mai mangiare cioccolato. Quello ti viene alla testa. Esatto. Sempre, non potrò mai mangiare cioccolato, non potrò mai mangiare dolci, non potrò mai mangiare patatine fritte. E tutto il tempo stai lì, non potrò. Quindi ti viene lo stress e non riesci poi, perché stai a pensare a tutto quello che non potresti mangiare e ti viene voglia di mangiarlo. Quindi inizi magari la dieta, poi la interrompi. Sì, e non la riprendi più. Ora ve la riprendo lunedì. Il mitico lunedì. Sì, la riprendo lunedì. Vero. Il lunedì di qualche anno fa. Io l'ho fatta io la dieta. Sei riuscita? Eh? È andata bene. Cioè. 15 kg in Mazza. 15 giorni. Non mangiavo al giorno. Non mangiavo più e non bevevo. È bella dieta, questa la chiama dieta, questo si chiama morire da fame. Un fakir. E poi sono andata all'ospedale. ecco il finale dove va. E c'avevo l'asma, non riuscivo a mangiare. Don't try this at home. Abbiamo trovato il sistema. Andare in ospedale. No, meglio di no. Mi viene una martellata in testa, entro in coma. Sono venuta così. 15 giorni dopo mi sveglio. Poi c'era un altro consiglio che ho letto su internet, che era quello di non mangiare mentre si fanno altre cose. Cioè, per esempio, se andiamo al cinema, no, mangiare. Il fatto che noi non siamo concentrati sul cibo ci porta a riempirci. È vero, esagerare. Anche non guardare la televisione mentre si mangia. Perché tu guardi la TV e non ti rendi conto della quantità del cibo che ingerisci. Base. Invece la maggior parte degli italiani, tu ben sai, orario di pranzo, tutti intorno alla tavola a mangiare, guardarsi la televisione. Invece, no. Tempi passati, tutti riuniti in tavola a parlare tra di loro, sì. E mangiare con la calma dovuta. Uno mamma, si rende cosa hai conto fatto? Del mamma, piatto. Cosa hai fatto? E si parla. O anche l'abitudine di mangiare al computer, tu ti distrai e non ti rendi conto. Hai davanti il piatto mentre. E poi guardi il piatto e finito. Era fine. No, terribile, perché mangi guardando la televisione, o ti distrai dal piatto, oppure ti distrai dalla televisione, guardi studio aperto e finisci per credere a quello che dicono. Quindi, a parte sicuramente, però. Bisogna evitare quindi queste cose. Comunque ragazzi, adesso un po' di musica con Sunday Chocolate Club per restare. The moment you fail. Jimmy! Ed era la cena dei regini, ragazzi, qui questa settimana raccogliamo le nostre cose e ce ne andiamo a casa. Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, ci siamo divertiti, a voglia, abbiamo fatto sapere i cavoli nostri a tutti qua e anche divulgato un verbo, delle regole semplici per stare meglio a tavola. Il premio naso, a chi lo diamo questa settimana? Il premio naso ha una, non è un premio naso, però quel discorso lì è una, un riconoscimento in positivo. E va a codesta Carmela Salazar, che ha fatto Carmela Salazar, risulta dall'elenco dei 35 saggi, tra l'altro questo termine ultimamente va molto di moda, scelti dal governo Letta Alfano per le riforme costituzionali, quindi una, un cervellone di ordinario di diritto costituzionale che rivedrà assieme al governo, insomma, queste le riforme costituzionali e quindi le... Ma chi è sta qua? Dov'è? Cioè, diciamo, sinceramente. È di Reggio Calabria. È di Reggio Calabria, docente, come ho detto, ordinario di diritto costituzionale, quindi laureato in giurisprudenza. Reggio Calabria. Concetto 10 lode, menzione di pubblicazione. Soprattutto perché ho Reggio Calabria di cui parlano male. E invece abbiamo anche cittadini illustri. Sì, perché si criticava lo stato della donna in Calabria per qualche cena fa. Esatto. Perché c'era questo intellettuale che aveva parlato male dello stato della donna in Calabria. E questa è una delle dimostrazioni. Ma io proporrei un applauso per Salazar. Lampante. Brava! Sei tutti noi! La maggior parte. Vabbè. È una donna, Daniele. Sei tutti noi! Cioè, nel senso, noi che passeggiamo per le donne, nel senso morale, siamo torniamo a casa. E detto questo, ragazzi, ci salutiamo alla settimana prossima. www.back.it, cliccate a Cena Regini, contattateci se volete partecipare anche voi alla cena. cena@back.it, potete scrivermi: Bacco, perché non mi inviti visto che io ho fatto questo e questo. Ragazzi, un saluto a tutti e applausi. Addio, addio, amici, addio. Addio. Ciao.